Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Vedo già i messaggi sui costi della politica. Un attimo, andiamo con calma. Allora, c'è materia anche su questo, perché oggi la UIL è uscita con il rapporto annuale sui costi della politica in Italia. Beh, c'è da avere i brividi, lo dico senza nessun populismo. Qualcuno mi ha scritto dicendo anche lei si allinea al grillismo, a chi fa populismo sui costi della politica. Veramente non mi allineo a nulla. Se gli scandali scoppiano, portano alle dimissioni della Polverini, ci sono inchieste in corso in Campania e in Calabria, abbiamo continuamente racconti delle disfunzioni della politica anche e soprattutto su base regionale, qui non c'è da allinearsi, qui c'è da fare solo i cronisti e poi ognuno valuti come crede. Dicevo, il rapporto della UIL, pensate quanto costa il funzionamento degli organismi politici istituzionali centrali e territoriali, quindi la rappresentanza sia a livello nazionale che a livello regionale, provinciale e comunale. Potrei fare un test, quanti miliardi costa? Vediamo se qualcuno risponde al 349-238-6666. Quanti miliardi costa e quante persone vivono di politica in questo paese, tutto incluso, quindi considerando anche l'indotto e considerando Parlamento, Governo, organismi di rappresentanza nazionale, poi regionale, provinciale e comunale. La risposta dopo le notizie in breve. Di questo parleremo con lo stesso segretario della UIL, Luigi Angeletti, alle 18:07, quindi nella seconda ora del programma. In apertura invece altre due notizie che stridono fortemente con quello che abbiamo letto in questi giorni sugli sprechi, gli abusi, l'assenza di etica. Io dissi la settimana scorsa è un problema quasi estetico, direbbe un filosofo, prima ancora che etico. Cioè, i due dati che stridono con questo sono il dato sul potere d'acquisto degli italiani. Anche la Confcommercio oggi segnala come il calo nei consumi nell'anno 2012 sarà il più forte come calo dal 1946. La CGIL calcola che nel rapporto IRES che tra il 2007 e il 2011 la perdita media annua di consumo per le famiglie di operai sia stata di 200 euro all'anno e con un costo complessivo di 1.800 euro in meno anche per i prossimi due anni. Nei prossimi due anni si perderanno circa 600 euro l'anno per le famiglie di operai. E nel frattempo, dicevo, il Confcommercio segnala un crollo dei consumi, come già ha fatto la Confindustria la settimana scorsa, che non avveniva dal 46, e il rapporto dell'Istat sul mercato della casa segnala un vero e proprio crollo, non dei prezzi, ma delle compravendite, meno 17% nei primi tre mesi dell'anno rispetto ai primi tre mesi del 2011, e meno 50% il numero di mutui erogati, vuol dire la metà nei primi tre mesi del 2012 rispetto ai primi tre mesi del 2011. È chiaro che i mutui non vengono erogati, un po' perché le banche sono più restie a darli e un po' perché con la crisi c'è meno gente che vuole comprarsi casa. Però tutti questi dati messi assieme segnalano una difficoltà enorme del lavoro dipendente, ma non solo. Sappiamo che anche il mondo delle prestazioni del commercio, quello non dei grandi numeri ma quello degli artigiani e dei piccoli commercianti, è in estrema difficoltà. Dicevo, una difficoltà del paese, e non so se sia populistico o meno, una politica che ha visto aumentare negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, quello che sono le sue retribuzioni dell'80%, con un costo che vedo molti che stanno scrivendo per indovinare. Adesso vi svelerò dopo le altre notizie in breve. Devo dire che per quello che sto leggendo siete ancora ottimisti sia sui costi sia sul numero di persone che vivono direttamente o indirettamente di politica. Le notizie in breve. La borsa altalenante oggi, perdeva Milano e anche non poco, adesso invece è in territorio positivo, 0,5 punto percentuale di rialzo a Milano, Parigi idem, Francoforte più 0,30, Londra più 0,40, l'America più 0,40%, euro su dollaro a quota 1,2963. Bene i bancari, ne parleremo dopo, UbiBanca più 3,15, Intesa San Paolo più 2,80 come la Popolare di Milano e il Banco Popolare, Tenaris più 2,60, bene anche Unicredit più 2,30, Finmeccanica più 2, Impregilo più 2, Parmalat più 1,60 come Telecom Italia e Prismian, l'1,40 lo guadagna invece la Popolare Emilia Romagna. Tra chi perde invece segnaliamo Fiat, -2,26%, Enel, -1,66%, Pirelli, -1,5%, STMicro Electronics, -1,40%, Fiat Industrial, -0,90% e Ferragamo, -1,25%. Petrolio, $92 il barile, oro, $1,775 l'oncia. Passiamo alla Cina. Ieri abbiamo raccontato la vicenda della fabbrica della Foxconn di Taiwan. Allora, quella è una fabbrica enorme dove si producono i pezzi principali dell'elettronica da consumo a livello mondiale, tra cui anche l'iPhone 5. La Maxi Rissa ha interessato 2.000 operai e oltre 8.000 spettatori. Sembra che proprio le pressioni per produrre il nuovo telefonino abbiano creato le tensioni a livello, diciamo, di operai. L'azienda avrebbe infatti chiesto di alzare i ritmi produttivi, 40 feriti negli scontri. Ha comunque ripreso a produrre la fabbrica, che ormai tutti chiamano fabbrica dell'iPhone. Nel frattempo gli ingegneri finanziari di Wall Street sembrano aver trovato una nuova strada per combattere il calo degli scambi nel mercato dei derivati, cioè tutti quegli strumenti ad altissimo rischio che amplificano guadagni e perdite alla base della bolla di carta che è scoppiata nel 2007. Il Financial Times sostiene infatti che la Markit, la società a cui fa capo l'indice CDX, introdurranno e costringeranno le banche a introdurre i CDS, quindi credit default swaps, scommesse su quanto salirà o scenderà la polizza assicurativa per assicurarsi contro il rischio di un fallimento. Dicevo, costringeranno le banche a introdurre CDS su queste tre società: Citigroup, Charter Communication e Calpine Corp. Ricordo che il valore dei derivati a livello mondiale è, solo i derivati valgono 460.000 miliardi di dollari, ossia 7 volte il PIL mondiale, cioè ci sono scommesse, futures, CDS, quello che volete, pari a 6 volte 7 il PIL mondiale. Se prendiamo tutti gli strumenti comunque finanziari e speculativi, arriviamo a 50 volte il PIL mondiale. Sul fronte europeo è allo studio l'ipotesi al governo greco di sostanzialmente proporre una proroga all'Europa dei rimborsi di debiti contratti con la Banca Centrale Europea per far fronte al buco di bilancio che, nonostante le smentite, sembra esserci in Grecia. La Banca Centrale Europea e le banche greche hanno circa 28 miliardi di euro di titoli greci che scadranno entro il 2016. La Grecia dovrebbe rimborsarli, i BOT infatti sono titoli di debito, contrai un debito e poi a scadenza lo rimborsi, e sembra che il governo greco stia pensando a una proroga. Ancora infine Standard & Poor's dice che la recessione peggiorerà sia in Italia che in Spagna. Lo spread italiano è risalito a 360 punti dopo l'andamento di un'asta in Spagna un po' deludente, perché è risalito il rendimento, cioè la Spagna ha dovuto offrire un tasso di interesse più alto per trovare compratori per il suo debito, ha collocato titoli a 3 e 6 mesi per 4 miliardi con un aumento dei tassi, e il tesoro nostro invece ha venduto tutto il 1,5 miliardi di BTP indicizzati. Il rendimento al 2016 al 2,46%, buona la domanda. 2020 rendimento al 3,70%, buona anche lì la domanda. E poi ha collocato il nostro tesoro 4 miliardi di CTZ, scadenza 2014, per 4 miliardi dicevo, con tassi in calo al 2,5% contro il 3% che dovevamo offrire per trovare compratori a agosto. L'incontro Merkel-Draghi, Angela Merkel ha ribadito: no, non potremo avere un debito europeo, la condivisione del debito ci riporterebbe dove eravamo prima. Gli stipendi più alti in Germania non sono la soluzione, e ha detto poi Angela Merkel: ci sono ancora molti compiti da fare a casa, riferita ai vari paesi. Mario Draghi ha detto: la Banca Centrale Europea doveva scegliere fra un no su tutto, nein zu alle, o agire, e ha deciso di agire. Sulla vicenda Fiat questa sera c'è l'incontro governo-sindacati, e segnalo invece sul fronte delle trattative sul lavoro 4 persone ferite, 2 tra le forze dell'ordine e 2 tra i lavoratori dell'Alcoa, dopo i momenti di tensione questa mattina davanti all'assessorato del lavoro a Cagliari. E adesso la rubrica nostra: ma cos'è questa crisi? Non è che l'abbiamo messa in soffitta, ci sono ancora notizie ogni tanto di persone che la crisi, soggetti, società, manager, che la crisi non la sentono, però in questi giorni l'abbiamo sostituita con un'altra rubrica che è sostanzialmente una politica marziana, una politica che vive in un altro mondo, e vedo che molti hanno apprezzato, abbiamo riscoperto un vecchio classico. Purtroppo, dico purtroppo, ha 30 anni questa canzone, a dimostrazione che in questo paese i vizi e non solo le virtù sono di lunga e antica data. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, intanto la risposta al quiz, i costi della politica, rapporto della Will di oggi: 6 miliardi e 400 milioni, una mezza manovra finanziaria all'anno, 209 euro per contribuente. Di questi 3 miliardi per lo Stato centrale, ossia la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera e il Senato, la Corte Costituzionale e anche i ministeri. E sono 101 euro. Poi abbiamo 1 miliardo e 100 milioni per le giunte e i consigli regionali, 38 euro a contribuente. E 2 miliardi e 100 milioni per giunte, consigli provinciali e comunali, 70 euro medi per contribuente. Quante persone vivono di politica in questo paese? 1 milione e 200 mila persone, quasi il 5% degli occupati, tra chi ci vive direttamente, chi lavora per le municipalizzate, per le partecipazioni delle province, delle regioni, l'indotto della politica. 1.100.000 persone, il 5% degli occupati, e lì disoccupazione se ne vede poca, per ora, per un costo totale di 6 miliardi e 400 milioni. E questa era diciamo, la risposta al quiz. Alcuni l'hanno azzeccata, altri no, e vabbè, molti sono ottimisti. E invece adesso passiamo a raccontare le regioni. Oggi veramente siamo da un punto di vista geografico bipartisan, perché ce n'è per la Sicilia e per la Lombardia. Un bel tango della Maiella, io lo riproporrei. Allora, Allora, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo di inchiesta sulle spese dell'Assemblea regionale siciliana. O mai che vengano tagliate se non si muove la magistratura. Piccolo inciso, ma la Corte dei Conti, Presidente Giampolino, dov'era in questi anni? Noi la paghiamo, la paghiamo anche bene. È possibile che la Corte dei Conti non si sia mai accorta di nulla se non proclami ogni anno con questa messa da sepolcri imbiancati, no? Messa cantata. Ma poi, andando nel dettaglio, la Corte dei Conti non poteva arrivarci prima del PM? Chiudo. Allora, la Procura acquisirà il bilancio dell'Assemblea della Regione Sicilia. Pensate che il presidente dell'ARS ha utilizzato, Francesco Cascio, il presidente dell'Assemblea regionale, ha utilizzato 380.000 euro di fondi riservati, cioè tutto il budget 2010. E anche per il 2011 la stessa cifra. Ma perché il presidente di un'Assemblea regionale deve avere a disposizione, senza giustificarli, 380.000 euro, avendo già l'autista, lo stipendio, le segretarie, i funzionari? E poi intanto comunque non c'è niente da fare. Nonostante la polemica innescata dall'associazione SS Democrazia nel comune di Ribera, famoso per le arance se non ricordo male, paese agrigentino, 20.000 abitanti, il vice sindaco del Movimento per l'Autonomia, quello di Lombardo, Giuseppe Cortese, si è dimesso. Dici bene, no, è entrata una donna al posto suo, Carmela Vaccaro, insegnante di scuola media, ma soprattutto moglie del vice sindaco che si era dimesso. No, cosa pazzesca. Speriamo che nessun tedesco ascolti, va. E poi la regione Lombardia. Qui abbiamo anche un'altra base. Possiamo tenere anche questa, tanto mi sembra che da questo punto di vista il paese sia molto unito. Eccola qua. È vero che l'Italia è lunga, ma sulle spese della politica è molto molto corta, Allora, volete sapere alcune delle super consulenze che ha dato la regione Lombardia, che pure costa meno di Virtuosa? Avvistamento scoiattoli. Ma che è? Paperino, topolino, ma io non ci posso credere. Allora, i contratti stipulati dalla Giunta Formigoni. 145.000 euro per il coordinamento nelle problematiche di gestione dei grandi carnivori. Ma che era riferita a loro, perché quanto a carnivori, Coordinamento nelle problematiche di gestione dei grandi carnivori. Vabbè, 75.000 euro per il design e la realizzazione di un prototipo per l'osservazione degli scoiattoli. Ma io voglio dire, nell'orso Yogi, quando è che lo prendiamo in considerazione? 80.000 euro stanziati per la campagna per l'uso corretto dei cosmetici. Ma per chi poi? L'uso corretto dei cosmetici per chi? No, boh. 80.000 euro, mica uno scherzo. Datele a qualche asilo, ospedale, lo so che sono populista, qualche scuola, qualche insegnante di sostegno, no. 73.000 euro più altri 48.000 euro sempre in Regione Lombardia destinati al servizio di supporto tecnico-scientifico per la conservazione dell'orso bruno. Ma dateli direttamente all'orso bruno, no? Cosa fate? Dateli all'orso bruno che le gestirà meglio. Ma che è il supporto tecnico-scientifico per la conservazione dell'orso bruno? Certo, siamo tutti d'accordo per il mantenimento della fauna, Però basta che non resti solo la fauna fra un po', perché fra un po' qua resta tanta fauna e pochi umani. 800.000 euro per l'assegnazione del servizio per lo sviluppo della figura professionale dell'operatore del benessere. L'operatore del benessere. 150.000 euro per il costo dello stoccaggio di spedizione del materiale promo pubblicitario della Direzione Generale di Commercio, Turismo e Servizi della Regione. 1.500.000 per il servizio di progettazione e realizzazione del programma operativo regionale programmazione comunitaria 2007-2013. Chi ci capisce qualcosa lo mando a Stoccolma per il Nobel, chiaramente. 1.000.000 di euro per la progettazione, l'edizione, la stampa, la distribuzione dell'house organ della Direzione Generale Agricoltura Lombardia Verde. 1.000.000 di euro per l'house organ Agricoltura Verde. 500.000 euro sempre della Regione Lombardia per analisi, pianificazione e studio di fattibilità per la campagna di comunicazione L'agricoltura cambia faccia alla tua vita. Ma qua la faccia alla vita di certe persone non gliela cambia l'agricoltura, gliela cambiano gli elettori fra un po'. Ma come si fanno a spendere 500.000 euro per pianificare e studiare la fattibilità? Cioè non è che è la campagna questa, è lo studio di fattibilità e la pianificazione per la campagna L'agricoltura cambia faccia alla tua vita. Bisogna vedere come la cambia poi. Tre lotti complessivi da 200.000 euro per il servizio di assistenza tecnico-specialistica per la predisposizione dei documenti necessari all'avvio della nuova fase di programmazione di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera. Cioè, non ho capito cosa sia la nuova fase di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera. Dategli direttamente agli spalloni e facciamo prima. 150.000 euro la Regione Lombardia li ha spesi per realizzare solo questo mese il materiale promozionale di In più lingue sull'offerta turistica termale lombarda. 90.000 euro per l'aggiornamento, la traduzione, la stampa della pubblicazione Cicloturismo in Lombardia. 30.000 euro, chiudiamo con questa che non ce la faccio più, per l'appalto del servizio fotografico e il video a supporto di Assessorato Itinerante. Assessorato itinerante, iniziativa del vice governatore leghista Andrea Gibelli. Ma Gibelli, ma che è sto assessorato itinerante? Nel senso che è vero che fra un po' vi ci mandano, ma almeno state lì per un po', no? Che è l'assessorato itinerante? Comunque l'applauso lo vince, secondo me, a pari merito, oggi è un ex equo, tra i tre. Io direi i 145.000 euro di consulenze spese per il coordinamento nelle problematiche di gestione dei grandi carnivori, ex aequo con i 75.000 euro per il design e la realizzazione di un prototipo per l'osservazione degli scoiattoli. Ma 75.000 euro è una piccola casa, un mega camper, ma chiedo, chip e chop, ma gliene avete chiesto? E 80.000 euro stanziati per la campagna per l'uso corretto dei cosmetici, ex aequo. La bellezza di 320.000 euro spesi per queste grandissime perle. E adesso chiudiamo con cosa chiudiamo? Chiudiamo con Quinto Potere e con Sidney Lumet, 1978. Vai che meglio. Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Giustamente c'è chi scrive Barisoni e lei non capisce niente di ricerca e sviluppo, lo so, adesso mi informo con Chip e Chop, l'orso yogi e qualche grande consumatrice di cosmetica e poi qualche grande carnivoro, vado da Batman forse. ...17:36 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso veniamo invece, qualcuno mi ha scritto, ma quando parlava della Sicilia era arrabbiato, quando parlava della Lombardia rideva. No, guardi, sa come si dice, si ride per non piangere. Dopodiché mi ha scritto un ascoltatore, ma una volta che hanno avvistato gli scoiattoli che cosa ne fanno? Non lo so, spero che non se mangino pure quelli, perché a questo punto, cioè 75.000 euro della Regione Lombardia per il design e la realizzazione del prototipo per osservare gli scoiattoli, il prototipo, e poi bisogna comprarli invece. Ci andrei a vivere io, non so se ci entro, ma magari insomma no. Allora, torniamo a essere molto seri purtroppo, perché mentre e qualcuno mi scrive, ma perché si occupa di questi temi, cosa c'entrano con l'economia? Cosa c'entrano con l'economia? Cioè i 4 miliardi, i 6 miliardi e 100 che costa la politica a questo paese, una manovra finanziaria, il 1.100.000 persone che ci vivono non c'entra con l'economia? Guardi, ha scritto un altro ascoltatore che la regione paga, vediamo se riesco a riprenderla perché oggi sono tantissimi, i volontari del servizio ambulanze 6,40 euro ok, come contributo allo straordinario. Ecco, magari o caricano sulle ambulanze gli scoiattoli e i grandi carnivori, o girano questi soldi a chi fa lavoro di volontariato, vero? Poi andiamo a ragionare, come abbiamo fatto la settimana scorsa, sugli assistenti, sugli insegnanti di sostegno che mancano, sulle scuole che chiudono, sui tagli, Lazio, Lombardia, sempre pronti a tagliare le cose minori. Anche questo sarà populista, ma non me ne frega nulla. Vediamo se continuiamo col populismo, visto che oggi la Confcommercio da un lato e l'Istat dall'altro ci dicono, ci danno due fotografie della difficoltà degli italiani nel mantenere tenore e reddito di vita. Commercio nel 2012, il calo è oltre il 3%, calo dei consumi è il peggiore dal 1946. Addirittura nel terzo trimestre meno 6,5%. Piccoli esercizi al dettaglio. Sono in flessione il fatturato meno 2,6%, crescono i discount più 1,8%, i supermercati più 1,5%. I Codacons dicono perché per il cibo la spesa è tornata indietro di 33 anni, addirittura anche il rito del caffè rischia di essere compromesso, meno 7% con i consumi di latte, meno 5% quelli di olio, chiaramente per la gente normale, non per ostriche, Ulisse, Batman, mamma mia che nomi. Comunque stanno meglio gli scoiattoli e l'orso bruno, se avanti così, non c'è dubbio. E poi dati sul settore immobiliare, meno 50% i mutui e meno 17% le compravendite. Dottor Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio, buonasera. Buonasera. Buonasera anche a Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Buonasera anche a lei. Allora, qualcuno vuole essere solidale con lo scoiattolo, con l'orso bruno, oppure posso andare avanti, purtroppo, con elementi un po'... Bella, mentre sì. Noi la regione Lombardia spende soldi per l'orso sì. bruno e la Sicilia fa quello che raccontiamo da mesi, il Lazio... Voi avete, come la Confindustria fece già la settimana scorsa, avete notato sì. che il calo dei consumi acquisito ormai per il 2012 è come calo il più forte... dal 46, non è che torniamo a consumare quello del 46, ci mancherebbe. No. Dove però... si colloca, a parte la politica che mi sembra che invece vive in un altro emisfero, ma dove si colloca questo calo? Dunque, guardi, facciamo un ragionamento molto semplice con un paio di numeri, così anche gli ascoltatori si rendono conto. Vabbè, viviamo una crisi lunga, non ne siamo usciti, non so quando ne usciremo. Dunque, nel 2012, rispetto al 1992, vent'anni prima, i generi alimentari sono diminuiti del 7%, cioè a testa. Mediamente si consuma complessivamente il 7% meno che vent'anni fa. Per la carne di meno 18%, per il pesce 10%, per gli oli e grassi, che forse ci saranno anche diciamo, degli aspetti dietetici positivi, meno 26%. E poi si va avanti. Cioè, oli e grassi, meno 26% nei consumi. Rispetto al 92. Rispetto al 92. Rispetto al 92, cioè stiamo parlando di un salto indietro, cosa che vale anche per le calzature, meno 22%, per i mobili, meno 21%, per le auto, le moto, le biciclette, meno 40%, per la gioielleria, meno 34%, sempre rispetto a 20 anni prima. Allora, mi pare evidente che poi queste cose si traducono anche nella riduzione della marginalità e quindi il commercio al dettaglio ne soffre, mi pare evidente che siamo di fronte a una crisi dalla quale è difficile uscire e vorrei dire agli ascoltatori che le domandavano prima che cosa c'entra valutare certi sprechi, certe spese strane da parte delle regioni, che cosa c'entra con l'economia, c'entra moltissimo perché I costi della politica non sono i costi diretti, cioè 200.000 euro buttati, ma sono anche i costi di tutta l'intermediazione che c'è intorno. Sì. Il nostro è un paese che ha bisogno di essere liberato, ma immaginiamo semplicemente un giovane, uno di 24 anni, che in luogo di tentare di fare l'ingegnere o il medico, tenta di fare il funzionario della regione o tenta di fare il politico, perché hanno degli ottimi stipendi, perché hanno delle scarse, pochissime responsabilità e possono fare sostanzialmente quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè tutto quello che vogliono a prescindere dalla crisi. Cioè c'è un gruppo di persone ormai ampio nel nostro paese che non legge i dati dell'Istat, che non sente la crisi, che non capisce. No, guardi, li legge, ma li legge ma se ne fotte, no, è diverso. Non lo legge... so, ma secondo me non li conoscono nemmeno, perché vogliamo ricordare che ora non stiamo parlando soltanto di numeri, stiamo parlando di persone, no? Vogliamo ricordare che negli ultimi 4 anni le persone assolutamente povere, cioè quelle che non riescono a comprare secondo l'Istat un paniere minimo di beni di sussistenza, sono passate da 2,4 milioni a 3,4 milioni, un milione in più. Cioè questi sono dati che effettivamente dovrebbero fare riflettere, e ci vorrebbe anche un'inversione di tendenza, nel senso che la politica forse dovrebbe impegnarsi un pochino di più sul versante della crescita. Allora, bella, la vedo bello arrabbiato, mi scusi il gioco di parole. Devo dire che siccome invece gli stipendi della politica, parlo non solo di Roma, parlo delle regioni, province e comuni, i costi hanno avuto un aumento dell'80% negli ultimi 10 anni. Sì. Allora io dico, se va avanti così, se anche la regione Lombardia, io non so, alcuni scrivono saranno società di CL, di Comunione Liberazione, amiche di Formigoni, non lo so. Io so solo che siano amiche o non amiche, anche se nemiche, se andiamo avanti a spendere 150.000 euro per coordinare le problematiche nella gestione dei grandi carnivori, o 75.000 euro per realizzare il prototipo e il design del prototipo per osservare gli scoiattoli, fra un po' i grandi carnivori e gli scoiattoli se li mangiano, ce li mangiamo, cioè, perché non si può andare avanti con una politica. Abbiamo visto che la Polverini nel 2010, nel momento in cui la crisi mordeva e mordeva dura, faceva passare le delibere per cui il vitalizio arrivava anche agli assessori non eletti, costo 1 milione di euro l'anno per 30 anni, e faceva passare delibere in cui aumentava la dotazione personale. Il bilancio a disposizione del Consiglio regionale del Lazio è aumentato di 20 milioni di euro dal 2009. Allora, quale settore industriale in questo paese si può permettere questo? A meno che tu non sia un bravissimo imprenditore che ha successo in Cina, India, così, allora fai quello che vuoi. Ma quale settore riesce a vivere in questo modo? Mi dica una cosa, voi non avete mai pensato come Confcommercio di far sentire il vostro peso, visto che rappresenta il mondo del commercio, anche nei confronti della politica, no? Noi siamo indipendenti ma non neutrali, nel senso che abbiamo sempre detto ridurre i costi della politica, ridurre gli sprechi. Dopodiché uno dice, beh, ma questi sono slogan, sono sciocchezze, però lei oggi ha fatto un elenco di spese che francamente, sulle quali francamente si potrebbe risparmiare un pelino. Tra l'altro ricordiamo, ma è d'accordo anche lo scoiattolo, l'abbiamo interpellato, sì, per cui... tra l'altro poi sul discorso dell'orso c'è da dire una cosa, ci hanno provato in Trentino, non c'erano orsi, li hanno rimessi portandoli alla Slovenia, il risultato è che poi gli orsi sono moltiplicati e ora pagano se uno li spara. Comunque, quindi diciamo, bisogna anche stare attenti a certe cose. Vorrei ricordare agli ascoltatori, ma lo sanno già, che quando una regione spende troppo e va in deficit, poi ci sono gli incrementi delle addizionali regionali. Certo. Quindi lo paghiamo noi quotidianamente con le nostre tasche. È una cosa che non può andare. Secondo me c'è tanto da fare su questo versante e noi l'abbiamo sempre ribadito. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Breglia, i dati della Confcommercio sono evidenti, sono ahimè drammatici sui consumi. A me ha impressionato molto il calo che raccontava prima Bella, non solo il latte -5%, -7%, olio -5%, pesce -4%, ma anche i prodotti grassi -25%. Saremo tutti quanti più in forma, così andranno in crisi le palestre e i dietologi. Il dato sugli immobili invece va preso in maniera più articolata, cioè non sono crollati i prezzi, ma a me ha fatto impressione vedere mutui -50% e compravendite -17%. Beh, uno è l'effetto dell'altro, soprattutto negli ultimi anni il mercato immobiliare è stato aiutato fortemente dalla possibilità di avere dei mutui che arrivavano al 100% del valore dell'immobile. Poi dal 2008 man mano il credito immobiliare è calato fino ad arrivare ai minimi, perché il 50% che lei citava fa riferimento a un numero già molto basso dello scorso anno, per cui rispetto agli anni 2006-2007 ci troviamo con mutui erogati che sono crollati dell'80-90%. Ecco, due domande che ci pongono anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Perché i mutui crollano? Perché meno 50 è un crollo? Perché le banche ne erogano meno o perché siamo noi a chiedere meno mutui perché abbiamo meno soldi per comprare casa? Due, perché invece i prezzi sono fermi? Beh, rispondo con l'ultima. I prezzi in realtà non sono fermi, sono calati in termini nominali tutti gli anni e in termini reali in 5 anni sono calati del 15%, quindi è un cioè, siccome si vedono delle medie abbastanza stabili, sembra che siano fermi, in realtà no, sono calati molto nelle case nuove, sono calati in periferia, sono rimasti stabili solo nelle zone centrali, però la sensazione è che siano fermi perché ci sono meno compravendite, quindi con meno scambi sembra che il mercato sia fermo, molti si avvicinano al mercato, sentono il primo prezzo, che è un prezzo spesso vecchio di 3-4 anni fa, si tirano indietro. Banche e crediti. Beh, sicuramente le banche hanno ridotto fortemente negli anni gli stanziamenti per i mutui. Li hanno ritenuti rischiosi, hanno paura del subprime all'italiana, il credito sia alle imprese che alle famiglie viene ritenuto rischioso e quindi è fortemente ridotto. È chiaro che la loro giustificazione è pochi ci chiedono il mutuo, ma se uno fa il giro di 3-4 banche ogni volta gli pongono delle difficoltà sempre maggiori, il reddito, le garanzie dei genitori se si tratta di giovani, un patrimonio già esistente, un'età giovane, magari devono essere in due a lavorare e magari dopo tutto questo lunga via crucis di interrogatorio ti dicono non abbiamo risorse, ripassi fra qualche mese. L'unica possibilità è quella di aspettare davvero un po' di tempo che la situazione sul mercato finanziario si raddrizzi, però è difficile ipotizzare che a breve si possa tornare a una situazione così positiva come quella che abbiamo avuto nei primi anni 2000. Ecco, l'ultima domanda per lei è questa, infatti, voi vi attendete per il 2013 un calo ulteriore dei prezzi e delle compravendite o vedete un'inversione di tendenza? Ma diciamo che il 2013 è un anno di passaggio da una situazione di crisi a una situazione che dovrebbe essere leggermente migliore, ovviamente diciamo tra la seconda parte 2013 e 2014. Diciamo questo scenario, chiamiamolo così, rosellino, grigio la prima parte, un pochino più roseo dopo, ovviamente condizionato dagli elementi di contorno che sono quelli che oggi condizionano tutta l'economia, gli spread, l'occupazione in Italia e il costo del denaro più basso. Se queste cose diciamo rimangono almeno stabili e non peggiorano, si può ipotizzare un leggero miglioramento del mercato immobiliare. Grazie anche a Mario Breglia, direttore di Scenari Immobiliari. Adesso non manca che la borsa. Eleonora Micheli, Radio Colle sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, giornata a due facce oggi a Piazza Affari, prima negativa, poi chiude con un più 0,40% come Parigi, invece Francoforte più 0,16, Londra più 0,40. Poi darò io i titoli, direi, vabbè, le banche contrastate, adesso le do. Secondo me interessante anche Mediaset, T-Media e Telecom. Sì, infatti T-Media continua a essere sotto i riflettori. Che è la 7 poi, Telecom Italia Media, certo. Esatto, controlla la 7 e MTV. Sappiamo che è in vendita, è stata messa in vendita da Telecom Italia, pare che abbia ricevuto 3 offerte, 2 sarebbero alla finestra, si tratterebbe di Discovery Channel posseduta da John Malone, ma poi avrebbero bussato alle porte di Telecom Italia Media anche Clessidra, che è il fondo di investimento che che sarebbe disposto a rilevare tutta l'azienda, e la 3 Italia, l'azienda di telefonia. Poi comunque Cairo, che è colui che raccoglie la pubblicità proprio per la 7, sarebbe comunque interessato. Sì, le offerte di cui abbiamo parlato in questi giorni. E il titolo oggi come è andato? Il titolo è andato bene, sin dalle prime battute si è messo in evidenza, è stato uno dei migliori titoli, sul finale ha registrato un progresso del 5,5%, ma soprattutto ha spinto all'insù anche Telecom Italia, visto che peraltro si aspetta il consiglio di amministrazione chiamato in riunione questo giovedì proprio per esaminare le offerte di Telecom Italia Media, e poi chissà anche altri dossier come ad esempio lo scorporo della rete. L'altro titolo che mi interessava era Mediaset. Sì, per quanto riguarda Mediaset ha chiuso sopra i minimi, in verità durante la giornata andava peggio, ha chiuso meno 0,4%, da metà settembre ha perso circa il 15% del proprio valore, ma ricordiamo che agosto era corso sull'onda di una serie di speculazioni che ipotizzavano l'ingresso di nuovi soci. Poi appunto si è tornati a ragionare sulla raccolta pubblicitaria, che pare sia difficile anche per questo secondo semestre, così sia gli analisti sia gli esperti consigliano cautela. E poi dicevamo dei bancari, invece oggi più altalenanti, però bene va da un lato Banco Popolare più 3,20, Ubibanca più 3,15, Pop Milano più 2,70, Intesa San Paolo più 2,60, Unicredit più 2%, tensione in mattinata per l'asta spagnola con spread in rialzo, poi invece la situazione è migliorata, Tenaris più 2,80%, Fiat Industrial, e chiudiamo. Sì, Fiat Industrial è andata male, così come anche Fiat SPA è andata male insieme al comparto auto. Fiat Industrial invece risentendo soprattutto del contraccolpo di Caterpillar, che è la concorrente americana e che ha rivisto al ribasso le stime per gli anni venturi, soprattutto per il 2015, mettendo in conto che l'andamento dell'economia globale da qui al 2015 sarà abbastanza modesto. Ancora tra chi ha perso oggi, invece, oltre a Fiat Enel meno 1,80, Pirelli meno 1,70 come Steam Microelectronics, Salvatore Ferragamo meno 1,40 e Atlantia meno 0,80%. Grazie Eleonora Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso il GR, poi torniamo a parlare dei costi della politica, visto che c'è il rapporto della UIL, appunto 6 miliardi all'anno per 1.100.000 persone in questo paese che vivono di politica. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e torniamo dopo aver parlato della vita difficile degli italiani, non italiani veri, di quelli che vivono nel paese reale, e quindi il 95% della popolazione, adesso spiego perché il 5% ne è escluso, e quindi difficoltà nei consumi, i dati della Confcommercio, le retribuzioni del rapporto CGIL IRES, 1.800 euro in meno per gli operai nei prossimi 2 anni all'anno, 900 euro all'anno in meno, e ancora il crollo dei mutui e delle compravendite del mercato immobiliare. Torniamo a parlare invece dell'altra Italia, minoritaria ma che pesa, l'Italia di Marte, l'Italia di un altro emisfero, perché oggi la UIL ha diffuso il rapporto sui costi complessivi della politica nei suoi vari organismi di rappresentanza. €6.400.000.000, questo costa la politica a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, comunale, agli italiani, 209 euro per contribuente. Così distribuiti, €3.100.000.000 per lo Stato centrale, ossia la Presidenza della Repubblica e il Consiglio dei Ministri, la Camera, il Senato, la Corte Costituzionale e le varie attività dei ministeri, ossia 101 euro per contribuente. Poi 1.100.000.000 se ne vanno per le giunte e i consigli regionali, 38 euro media contribuente. 2.100.000 per giunte, consigli provinciali e comunali, 70 euro medi per contribuenti. Le persone che vivono direttamente o indirettamente di politica sono 1.100.000, il 5% della forza lavoro italiana. Ecco perché dico che il resto vale per il 95%. Allora, uno dice, ma come sono andati in questi anni di crisi? Beh, nel 2012 gli stanziamenti per giunte e consigli regionali sono diminuiti dell'1,6%. E vabbè, già qualcosa. Però Molise più 15%, 36 milioni di euro. Lazio più 5%, 138 milioni di euro. Veneto, Zaia, poi la richiamiamo, più 3% a 70 milioni e mezzo di euro. Sardegna più 2,5% a 104 milioni di euro. Campania più 1,3% a 84 milioni di euro nell'anno in cui la Confindustria e la Confcommercio ci dicono che i consumi caleranno del 3,6%, sia mai successo dal 1946. Ebbene, in quest'anno queste regioni si sono aumentate lo stanziamento. Molise, Lazio, Veneto, Sardegna, Campania. I cali in Calabria, il 15% in meno a 71 milioni, in Toscana meno 9% a 73 milioni, in Liguria meno 8% a 31 milioni. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento il segretario generale della UIL, quindi chi ha fatto il rapporto, Luigi Angeletti, buonasera. Buonasera. Dunque, da dove partire? Perché con quello che abbiamo raccontato in apertura del programma, cioè calo del potere d'acquisto degli italiani, gli operai 1.800 euro in meno nel periodo 2012-2014, stima dell'IRES CGL, e ancora i consumi al livello più basso dal 1946 come calo, non come dato assoluto, ma come calo nei consumi. Ci mancherebbe altro. Beh, sì, ecco. Dal 46, e anche il dato, se vogliamo, che commentavamo in apertura del programma sulle case, crollo dei mutui, meno 50% i mutui quest'anno nel primo trimestre rispetto al primo trimestre del 2011, dovuti sia a una minor facilità delle banche a erogarli che a una minor richiesta, ma anche il numero di compravendite immobiliari, meno 17% nei primi tre mesi dell'anno sul 2011. Dicevo, alla luce di questi dati, insomma, spicca quanto abbiamo appena raccontato. 1.100.000 persone, verrebbe voglia di fare la battuta, è l'unico settore che non conosce crisi occupazionale. Esatto, e che hanno avuto negli ultimi 10 anni un incremento del loro reddito dell'80%. 80%? Non c'è 80%, non c'è nessun lavoratore dipendente di nessuna natura, né nessuna impresa, salvo qualche mosca bianca, che abbia avuto un incremento o di reddito o di profitti di quella dimensione. Cioè ci troviamo di fronte ad un sistema che ha drenato risorse reali, non solo una, come dire, si è aggiudicato una fetta. Per aggiudicarsi una fetta le ha tolte in termini reali a tutto il resto della società, una specie di mano morta. E la cosa che mi preme dire più da quando abbiamo iniziato questa, chiamiamola così, campagna sui costi della politica, è questo: che il problema non è una cosa squisitamente morale o di, come dire, di sprechi o di buon governo, è un fatto istituzionale, cioè noi abbiamo un sistema istituzionale ridondante e la quantità di persone che vivono di politica direttamente o grazie a decisioni politiche che rappresenta il problema. Noi dobbiamo fare un'opera di normalizzazione, ridurre drasticamente il numero di queste persone. Oggi, ma a me ha impressionato anche la dichiarazione del presidente dell'ANCI, Graziano Del Rio, che ha detto: uno dei problemi che limita lo sviluppo è il ruolo eccessivo delle regioni, per le quali bisogna pensare ad una funzione diversa, facendole diventare solo programmatorie. Lui è il presidente dell'associazione che riunisce i comuni italiani. Restiamo un attimo sulle regioni, poi veniamo ai costi della politica in generale. Non solo per la vicenda Polverini e Lazio, ci sono inchieste in corso in Calabria, da quello che abbiamo capito, in Campania, la Sicilia ci regala ogni settimana novità, ma abbiamo avuto modo di parlare anche della Val d'Aosta e di altre regioni. Beh, mi sembra che nell'arco di un anno e mezzo, le regioni, da soggetto sempre virtuoso, in una logica federalista, stiano diventando e apparendo come un altro grossissimo centro di spreco, di costo, se non spreco, della politica. Di costo se non di spreco, per, secondo me, per una ragione, che è quella che sono state attribuite alle regioni grandi poteri anche legislativi, in concorrenza con lo Stato, che sta generando una confusione paurosa. Pensi al fatto che, per esempio, la politica energetica, le regioni possono fare una politica energetica come se non riusciamo a farla come Stato, immaginiamo se come regione, no? Quindi i gasdotti o qualunque altra attività dovrebbero sottostare a legislazioni diverse, ma soprattutto si è violato un principio sacrosanto di ogni democrazia, che al potere va affiancata la responsabilità agli stessi soggetti. Loro devono essere responsabili del reperimento delle risorse, oltre che del potere di spenderle. E ovviamente la trasparenza è fondamentale, perché è chiaro che se no ecco, i cittadini sono, come dire, in balia. Il vostro rapporto su questo è chiaro, nel senso che dice, sì, è vero, la parte nazionale del costo della politica, quella, diciamo, che pertiene alla Presidenza della Repubblica, del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, alla Camera, al Senato, alla Corte Costituzionale, ai ministeri, costa 3 miliardi, cioè 100 euro medi per contribuente. Però attenzione, anche le varie giunte e consigli regionali costano 1 miliardo e 100 con 38 euro medi per contribuente. Obiezione che arriva da alcuni ascoltatori al 349-238-6666. Anche i sindacati, cioè, sono un costo, anche allora, i sindacati sono pletorici. I sindacati non sono mantenuti dalle tasse dei cittadini, e questo, ma dalle sottoscrizioni volontarie dei lavoratori. E lei dice c'è una bella differenza. Facciamolo così, usiamo lo stesso metro. Allora, sì, anche le istituzioni vengono finanziate dal contributo volontario dei cittadini. Allora, vabbè, insomma, potremmo provarci. No, però in realtà il tema, scusi Angeletti, è serissimo, perché dicevamo nei giorni scorsi, ma perché un consiglio, allora, perché i rappresentanti politici del PD, del PDL, dell'Italia dei Valori, non mi interessa, devono ricevere finanziamenti pubblici, se devono organizzare delle cene, la loro campagna elettorale, la loro presente sul territorio, possono chiedere, come fanno anche le organizzazioni no profit, per motivi forse più nobili, chiedere contributi, no? Fare fundraising. Esatto. Peraltro, come è noto, ci fu un referendum che abolì il finanziamento pubblico ai partiti. Ovviamente poi si è fatto una cosa all'italiana, per cui è stato un sotterfugio, e quindi il principio è stato violato. Non c'è nessun bisogno di finanziare la politica, basta ridurre anche in maniera più sobria pagare le istituzioni, che sono fatte prevalentemente, anzi esclusivamente, da uomini politici. Quindi il finanziamento è comunque, arriva, no? Magari in diretto. Se invece si finanzia la politica perché la ritiene un bene pubblico, no? Cioè l'attività politica come bene pubblico, che probabilmente ha anche un suo senso, ovviamente bisogna essere assolutamente sobri, cioè avere quantità di denaro che vengono spese paragonabili a quelle che fanno negli altri paesi, no? Perché non è che dobbiamo inventarci delle regole, ci sono già in altri paesi delle regole che sono molto più contenute delle nostre. Di nuovo in diretta con Luigi Angeletti, segretario della UIL, per parlare del rapporto sui costi della politica. Una nota: allora, la politica costa 6 miliardi e 400 milioni in Italia, a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, comunale, come costi diretti. Il fatto che vi siano 1.100.000 persone che vivono di politica è perché vivere di politica vuol anche dire fare le consulenze, avere società partecipate e quant'altro. Allora, su questo vorrei capire poi con Luigi Angeletti, dove ripartire dove ci eravamo interrotti, cioè oggi Berlusconi ha detto, insomma, qui rischiamo di essere sommersi dal discredito. Secondo lei le vicende del Lazio, ma anche quelle che raccontavamo della Lombardia, poi parlerò anche del Veneto, l'inchiesta della magistratura in Sicilia, rischiano di dare il colpo finale a una classe politica che come tale vorrebbe ripresentarsi alle elezioni? Non è un timore che ho, non perché, non perché è il fenomeno in sé che non mi gesta preoccupazione. Io ho un altro timore, che tutto si risolva attraverso un'indignazione morale sul fatto che passi la logica che ci sono dei ladri, cacciamo i ladri e abbiamo risolto il problema. Questo è esattamente propedeutico al fatto che fra qualche anno ci ritroviamo esattamente nello stesso problema. Perché i costi della politica non sono un aspetto morale, sono un problema sostanziale dal punto di vista economico. Sono troppe risorse che vengono sottratte all'economia reale. E l'altra cosa che spesso viene, come dire, usata come argomento contro le mie tesi, cioè ma in fondo i comuni sono importanti, che sono il luogo nei quali i cittadini si riconoscono, eccetera, eccetera, quindi non si devono accorpare, dobbiamo tenere piccoli. Ma quelle 7.000 società pubbliche, 7.000 società pubbliche, lo voglio sottolineare, perché forse in tutta Europa non ce ne sono 7.000. Lei dice le municipalizzazioni. Per fornire servizi, per fornire servizi a 60 milioni di cittadini, negli altri paesi le società pubbliche si contano a decine, non a migliaia, a decine, neanche a centinaia. Quelle che cosa sono? Sono esattamente il bottino politico, perché sono nomine, incarichi, posti, e sono il vero, come dire, il vero oggetto del contendere quando si fanno le elezioni, no? Perché si fanno le elezioni per il sindaco e già si pensa. Allora se io vinco metterò questo lì, farò questo. Lei parla delle municipalizzate e le partecipate dai comuni certo, o dalle province. Non c'è nessuna razionalità, nessuna. Sono 70. Sì, faccio presente anche un'altra cosa. Che oltre ad avere un costo, i servizi sarebbero migliori. Oltre ad avere un costo per la collettività, perché sappiamo che spesso poi il neo sindaco, il neo presidente della provincia piazza in tutte queste migliaia di partecipate, vuoi per l'elettricità, vuoi per i servizi di altro genere, piazza delle volte i trombati to cure, quelli che non sono stati eletti, ma delle volte comunque gli amici, e quindi con una logica spesso poco meritocratica. C'è anche un altro problema, Angeletti, che fanno concorrenza impropria a società private, e cioè è chiaro che tu potresti avere invece che 7.000 società, poniamo solo 1.000, e le altre 6.000 sarebbero società private che magari lavorerebbero con una logica un po' più del profitto e quindi anche del merito della concorrenza, no? Sì, sì, ovviamente c'è anche questo, ma io mi accontento già della prima. Una domanda che mi viene sollecitata per arrivare verso la conclusione. Qui stiamo parlando della politica, cioè del massimo livello della rappresentanza popolare. Voi siete comunque, come sindacato, un soggetto della rappresentanza del mondo del lavoro. Lei dice, noi questo problema non ce lo poniamo perché tanto le nostre quote sono pagate da chi sottoscrive e da chi aderisce al sindacato, però le chiedo una riflessione interna, visto che sta cambiando il mondo della rappresentanza, diciamo così, una riflessione interna nel vostro campo non la volete fare? Cioè il mondo della rappresentanza... la stiamo facendo, e anzi per quanto ci riguarda come UIL... Noi la prossima settimana faremo una conferenza nazionale d'organizzazione dove ci porremo un obiettivo molto semplice, quello di fare una struttura a rete, non più verticale ma a rete orizzontale, in modo di arrivare a offrire servizi, protezione, tutela, rappresentanza alla stragrande maggioranza dei lavoratori e dei cittadini sul territorio. E ovviamente questo comporta la perdita di steccati, di situazioni diciamo così di quasi monopolio nella rappresentanza, perché il mondo è già cambiato. Ecco, mi dica una cosa però, sulla rappresentanza, per esempio c'è chi ha detto che con la Fiat voi e la CIS siete stati troppo morbidi, cioè vi siete fatti, come dicono a Firenze, portare in giro da Marchionne. Allora intanto vorrei capire che cosa ribatte a chi dice voi avete firmato gli accordi con Marchionne e poi lui comunque ha continuato a fare la sua politica più verso l'America che verso l'Italia, e poi arriviamo anche all'incontro con il governo. Allora, quando abbiamo firmato quegli accordi lo stabilimento di Pomigliano era chiuso. Era? Non aveva... Era chiuso. Era chiuso, certo.